Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Tagliare le frange più estreme come Fassina, Vendolalo a CGL lo chiede Monti al PD per una possibile alleanza. Obama dalle Hawaii promulga la legge che evita il fiscal cliff. Tre persone uccise in Svizzera da un folle. Al Jazeera compra la TV di Al Gore, Current TV. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. In primo piano la politica anche oggi e naturalmente la campagna elettorale. Anche oggi le voci sono quelle di Monti e Berlusconi. Fa di nuovo tappa in Rai la campagna elettorale di Mario Monti. Dagli studi radiofonici, il candidato premier dei centristi, oggi è passato a quelli televisivi di Uno Mattina e come ieri non ha risparmiato stoccate al Partito Democratico e al Popolo delle Libertà. Al PD, il presidente del Consiglio dimissionario ha chiesto in particolare di mettere da parte le ali estreme del suo schieramento. Coloro che hanno impedito alle riforme, alle varie riforme, al mercato del lavoro, più concorrenza, eccetera, di andare più avanti, come noi avremmo voluto, sono stati da una parte coloro che sono nel blocco più tradizionale della sinistra, che vuol dire la CGIL, la FIOM dal punto di vista sindacale, Vendola e il SEL, e l'onorevole Fassina dal punto di vista politico. Secondo Monti anche nel PDL c'è stato però chi ha impedito di realizzare le riforme. Il giudizio più critico del professore è quello nei confronti del collega Brunetta. Da un punto di vista economico generale, l'onorevole Brunetta, che sta portando con l'autorevolezza di un professore di una certa statura accademica, il PDL su posizioni direi piuttosto estreme e, se posso permettermi di dire, settarie. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Alle parole di Monti risponde e commenta anche la leader della CGIL, Susanna Camusso. Poco fa il premier Monti, che ha deciso di candidarsi alle elezioni, dice la Camusso, dovrebbe discutere dei suoi programmi invece di criticare gli altri. Silvio Berlusconi intanto sceglie le reti radiofoniche per intervenire e si lamenta di Monti in TV. Se lo fa lui non è uno scandalo, dice Berlusconi, lui che ha parlato 4 volte al giorno per 13 mesi approfittando di ogni occasione per mettersi in mostra. Se lo fa lui va bene, se lo faccio io è uno scandalo. Queste le parole di Berlusconi, ma insomma abbiamo altre notizie che riguardano l'ex premier. Avrà nome e simbolo di Grande Sud la lista meridionalista che sosterrà Berlusconi alle prossime politiche. Nell'aggregazione fondata da Gianfranco Micci, che confluiranno i movimenti territoriali vicini ai presidenti di regioni di centrodestra del Sud e all'ex ministro Raffaele Fitto. L'accordo è stato raggiunto ieri sera nel corso di un incontro a Palazzo Grazioli, ma i dettagli verranno definiti nel pomeriggio nel corso di una nuova riunione sempre a Palazzo Grazioli tra Berlusconi, Micci e i governatori di Calabria e Campania, un raggruppamento che dovrebbe fare da contrappeso alla Lega Nord, con la quale il PDL punta a chiudere un accordo elettorale. E forse anche in quest'ottica Berlusconi ieri ha messo in dubbio la sua candidatura. Non è detto che in caso di vittoria, dice, sarò io il presidente del Consiglio indicato dalla coalizione del PDL. Un messaggio al Carroccio, contrario alla sesta candidatura di Berlusconi a Palazzo Chigi. Intanto Paolo Bonaiuti, portavoce di Berlusconi, nonché componente della commissione di vigilanza RAI, interviene sulla partecipazione di Monti in TV, considerando eccessiva la sua presenza a Uno Mattina per la seconda volta in 3 settimane. Quando Berlusconi osò presentarsi allo stesso programma per la prima volta il 27 dicembre, dice Bonaiuti, il direttore Gubitosi chiamò in causa dirigenti e direttori. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Sarà una campagna elettorale aspra e virulenta, ormai lo abbiamo ben capito. Per la prima volta fra i due protagonisti del bipolarismo, Berlusconi e Bersani, si è inserito un terzo soggetto, Monti, che ha davvero l'ambizione di scuotere i vecchi equilibri. Che ci riesca è un altro conto, ma ci sta provando, non c'è dubbio. L'incisività, diciamo così, con cui il premier si è presentato sulla scena non era prevista da nessuno. L'insistenza con cui egli sta accusando la sinistra di essere conservatrice è qualcosa che non ha precedenti recenti, anche se Bersani e gli altri l'avevano considerato possibile. Significa voler sottrarre voti al Partito Democratico schiacciandolo tutto a sinistra, ed è un'offensiva a cui i democratici non possono e non potranno non rispondere duramente. mentre a destra Berlusconi ha ormai una sola carta per recuperare la Lega: indurire sempre più i toni, spostarsi sempre più verso un polemico populismo e da ultimo rinunciare alla candidatura a Premier per soddisfare la vera richiesta di Maroni. Una notizia di poco fa: sono stati individuati dalla polizia gli autori del pestaggio subito da un ispettore in servizio al commissariato Viminale durante la notte dello scorso Capodanno a Marino, vicino a Roma. La procura di Velletri ha emesso i provvedimenti di fermo nei confronti di 4 italiani accusati di tentato omicidio. Uno dei 4 è già stato fermato. Il poliziotto si trova in gravi condizioni, era intervenuto mentre era libero dal servizio per sedare una rissa fra 4 persone fuori da un locale. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i 2 marò italiani accusati dalle autorità indiane di aver ucciso 2 pescatori, si trovano in procura a Roma per essere interrogati in qualità di indagati. Domani i 2 dovrebbero tornare in India in attesa del processo. Adesso sentiamo come stanno andando i mercati. Buongiorno a Deborah Rosciani. Sì, buongiorno anche a voi. Allora, siamo reduci da una giornata piuttosto brillante sui mercati finanziari internazionali. Il tema, lo abbiamo ricordato in lungo e largo, è stato l'accordo raggiunto per evitare il precipizio fiscale americano. Peraltro, proprio stamattina dalle Hawaii, il presidente Barack Obama ha promulgato la legge sul fiscal cliff. E allora, dopo i forti rialzi di ieri, ricordiamo che Milano ha guadagnato il 3,8%, oggi arrivano delle piccole prese di beneficio. Tutti gli indici sono in calo: Londra è sulla parità, meno 0,6%, Parigi meno 0,36%, Francoforte, Milano meno 0,45%. L'euro sul dollaro a 1,31,04. Oggi peraltro i riflettori verranno ancora mantenuti puntati sugli Stati Uniti, perché arrivano molti dati macroeconomici piuttosto importanti: i nuovi mutui, l'indice ADP sull'occupazione, e domani arriverà il dato sulla disoccupazione americana di dicembre, poi le richieste di sussidi di disoccupazione, sussidi che peraltro sono stati prorogati dall'accordo raggiunto ieri. A Milano oggi perdono terreno i titoli che ieri hanno guadagnato di più, quindi in calo di circa un punto quasi tutte le banche. In rialzo abbiamo Impregilo più 2% dopo un'importante commessa ottenuta a Panama, Lottomatica ed STM. Spread fra BTP e Bund a 285 punti base. È tutto. Bene, grazie Deborah, buon lavoro. E noi parliamo ancora dell'accordo raggiunto al Congresso degli Stati Uniti, perché non convince né le agenzie di rating, Moody's e Standard & Poor's, né il Fondo Monetario Internazionale. Il burrone fiscale è stato evitato, ma la montagna del debito è tutta da scalare. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per aver scansato il cosiddetto fiscal cliff, gli Stati Uniti ora fanno i conti con chi, e non sono pochi, ricorda che il problema in realtà è ancora tutto lì. Gli analisti ritengono che l'intesa, se da un lato evita la recessione americana, dall'altro ne rallenterà la crescita. L'aumento delle tasse, anche se limitato solo ai più ricchi, avrà un peso sui consumi, e ancora non è chiaro quali saranno i tagli alla spesa per ora rimandati dal 1 gennaio al 1 di marzo. Deluse Moody's e Standard & Poor's, l'accordo non offre un significativo miglioramento del rapporto debito-PIL nel medio termine, afferma Moody's, mettendo in guardia sui rischi che ci sono all'orizzonte. L'accordo fa poco per mettere le finanze pubbliche americane su una traiettoria sostenibile, mette in evidenza invece Standard & Poor's. Scetticismo anche dal Fondo Monetario Internazionale, che lo ritiene positivo, anche se dice resta molto da fare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La TV qatariota del Qatar, quindi Al Jazeera, compra Current, la TV fondata dall'ex vicepresidente premio Nobel americano Al Gore. Dovrebbe quindi nascere Al Jazeera America. In Italia le avevamo già detto addio nel 2011. In America Current TV saluta ora, dopo meno di 8 anni di attività. To give individuals a voice. Quella che nelle intenzioni doveva essere la leva con cui scardinare l'informazione tradizionale, facendo uso del web e dei contenuti creati dallo spettatore, come sta spiegando nell'intervista in sottofondo proprio Al Gore, ecco, quella televisione si è arresa ad Al Jazeera. Certo, non un editore standard occidentale, ma comunque un gigante dell'informazione. Anche se, dicono Al Gore e il cofondatore Joel Hayat, ad Al Jazeera ci accomuna il desiderio di dar voce a chi non viene normalmente ascoltato. Triste epilogo per un canale di grandi ambizioni, ma che non era mai decollato davvero nemmeno in patria, se, come riporta il New York Times, nonostante fosse disponibile in 60 milioni di case, nel 2012 ha avuto una media di 42.000 spettatori per i programmi serali. Non sarà difficile far meglio per Al Jazeera America, sempre che la Time Warner Cable, che è la seconda seconda compagnia di TV via cavo d'America, non riesca a metterle i bastoni tra le ruote. Il cambio di proprietà, ha fatto sapere, ci dà l'occasione di stracciare il contratto che avevamo con Current. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Poco fa avete sentito Stefano Folli parlare del nodo ancora irrisolto dell'accordo possibile e ricercato soprattutto dal PDL con la Lega. Poco fa Silvio Berlusconi, parlando ad una emittente romana, Radio Radio, ha detto: posso fare il ministro dell'economia, il ministro degli esteri, qualunque cosa giovi al mio paese e a coloro che non si riconoscono nella sinistra, rispondendo appunto ad una domanda sulla possibile intesa con la Lega Nord. Adesso parliamo della Spending Review, piuttosto nota, che debutta anche nelle aule scolastiche. Sarà obbligatoria l'iscrizione via internet. Il conto alla rovescia è cominciato. Lunedì 21 gennaio scatterà il D-Day delle iscrizioni scolastiche online. I genitori di bambini e ragazzi che nell'anno scolastico 2013-2014 frequenteranno la prima elementare, la prima media, il primo anno di scuola superiore, dovranno obbligatoriamente iscrivere i propri figli utilizzando il computer e potranno farlo fino al 28 febbraio. Bisognerà collegarsi al sito del Ministero della Pubblica Istruzione e cliccando sull'icona iscrizioni online si avvierà la procedura. Si dovranno inserire i dati dei genitori, dello studente e quelli relativi alla scuola prescelta. La famiglia riceverà poi una mail con l'accettazione o il rifiuto. 1.700.000 circa gli studenti interessati da una rivoluzione che in parte preoccupa l'associazione Presidi. Non tutti, sottolinea il presidente Giorgio Rembado, hanno un computer ed alcuni genitori di alunni stranieri non conoscono bene l'italiano. Preoccupazioni alle quali il Ministero risponde sottolineando che basterà andare presso la segreteria dell'istituto prescelto per farsi assistere dai segretari nella compilazione del modulo online. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che arriva dalla Russia. Il presidente Putin ha concesso la cittadinanza russa all'attore Gérard Depardieu, che aveva, lo ricorderete, minacciato di rinunciare al passaporto francese per protesta contro le alte tasse in Francia. In Svizzera un uomo di 33 anni ha aperto il fuoco uccidendo 3 persone e ferendone altre 2 a Dajon, nel cantone Vallese. La polizia ha fermato l'uomo solo dopo uno scontro a fuoco in cui il killer è rimasto ferito. L'uomo al momento della strage era ubriaco ed è noto alle forze dell'ordine per essere stato ricoverato nel 2005 in un ospedale psichiatrico e anche per uso di droga. Adesso ci spostiamo invece in Pakistan. Il governo pakistano e i servizi segreti di Islamabad lo definivano il talebano buono. Più che altro il mullah Nazir Wazir era un moderato, per quanto questa definizione si possa riferire a un talebano, in quanto aveva un accordo di non aggressione con l'establishment del Pakistan. Per l'esercito di Islamabad, il capo della comunità tribale locale, era un mezzo per mantenere la pace interna, perché i suoi attacchi non avevano mai obiettivi entro i confini. Ma Nazir era considerato un nemico dagli Stati Uniti a causa degli attacchi contro le forze americane in Afghanistan. Il mullah è stato ucciso la notte scorsa in un attacco compiuto da un drone americano nel nord-ovest del paese al confine con l'Afghanistan, dove si trovano anche le basi segrete dei talibani afghani e dei militanti di Al-Qaeda. Nella stessa operazione è morto anche il suo vice, Rifa Khan, oltre ad altri 8 militanti. Subito dopo i funerali del mullah Nazir, al quale hanno preso parte circa 10.000 persone, una shura talebana, ossia un'assemblea, ha nominato come suo successore il mullah Ayubi. Intanto oggi in 35 città del Pakistan è stato sospeso il servizio di telefonia mobile per il temore di attentati terroristici in occasione di una festività religiosa sciita. Divieto anche di trasportare un passeggero in moto per evitare attacchi armati. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo un'ultima notizia che riguarda la vicenda Windjet. C'è stato un maxi ricorso collettivo, lo ha depositato il Codacons contro ENAC e Ministero dei Trasporti per conto di oltre 5.500 utenti, chiedendo 1.000 euro ciascuno per il blocco dei voli Windjet dello scorso agosto. Il crack era tutt'altro che imprevisto ed imprevedibile, dice il Codacons, e l'ENAC è il principale responsabile poiché nel suo sempre maggiore ruolo di vigilanza si è limitato ad un asserito riscontro formale della presenza dell'accordo con Alitalia. Il riferimento è alla trattativa per la fusione con l'ex compagnia di bandiera poi fallita. Sulla mancanza